Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Raboni. Quando le fu passato l'entusiasmo per i militari, Rosanette tornò ad essere più incantevole che mai e Federico, quasi senza accorgersene, prese l'abitudine di vivere da lei. Quando uscivano, Federico doveva sempre aspettarla, non la finiva più di sistemarsi intorno al mento i due nastri del cappellino e si sorrideva da sola nello specchio dell'armadio, poi infilava il braccio sotto il suo e lo costringeva a contemplarsi vicino a lei. «Che bella coppia facciamo, eh? Sei il mio amore piccolo, ti mangerei!» Era diventato una cosa sua, una sua proprietà. Lei ne aveva sul volto come un continuo raggiare. Nello stesso tempo, i suoi modi si erano fatti più languidi, le sue forme più rotonde. Federico la trovava cambiata, anche se non avrebbe saputo dire come. Un giorno gli annunciò, notizia molto importante, che Arnoux aveva aperto un negozio di biancheria a una sua ex operaia. Ci andava tutte le sere e spendeva molto. Non più tardi dell'altra settimana le aveva anche regalato tutti i mobili di Palissandro. Arnoux, in effetti, si lasciava sfruttare da quella ragazza di Bordeaux con tutta l'indulgenza degli amori senili. L'assenza prolungata di Federico mandava all'aria le sue abitudini. Un pomeriggio si presentò a casa sua per supplicarlo di venire a trovarlo come una volta e ne ottenne la promessa. Federico non aveva il coraggio di tornare da Madame Arnoux. Gli sembrava di averla tradita, ma era un comportarsi da vile. Le scuse si facevano sempre più deboli, bisognava farla finita, e così una sera s'era messo in cammino. Era fermo sul marciapiede di Rue Paradis, davanti a una casa, e fissava all'altezza del secondo piano, dietro una tendina, il chiarore di una lampada. Alla fine si decise a salire le scale. «Arnoux è in casa?» La cameriera rispose, «No, ma s'accomodi pure», e spalancando una porta bruscamente, «Signora, c'è il signor Moreau!» S'alzò. Era più pallida del collare della sua veste e tremava. «A cosa devo l'onore di una visita così inaspettata?» «A niente, al piacere di rivedere i vecchi amici». E mentre si sedeva, «Come sta l'ottimo Arnoux?» «Benissimo, è uscito». «Capisco. Le sue vecchie abitudini serali, un po' di svago, come sempre. Naturalmente, dopo una giornata passata a fare i conti, la testa ha bisogno di riposare». Una raffica improvvisa fece sussultare i vetri della finestra. «Che tempo!» disse Federico. «In effetti è stato molto gentile da parte sua venire fin qui con questa orribile pioggia. Non me ne accorgo nemmeno io. Non sono come certe persone alle quali il maltempo impedisce di andare agli appuntamenti». «Quali appuntamenti?» chiese la signora ingenuamente. «Proprio non ricorda?» Scossa da un brivido, chinò la testa. Federico le mise una mano sul braccio, delicatamente. «Mi ha fatto tanto soffrire, sa?» Lei rispose con una specie di lamento nella voce. «Ma avevo paura per il mio bambino». E gli raccontò la malattia del piccolo Eugenio e tutte le angosce di quel giorno. «Grazie, grazie. Ora non dubito più. La amo, come sempre». «No, non è vero. Perché dice questo?» Lo guardò freddamente. «Non sta dimenticando quell'altra? Quella che accompagna alle corse? La donna del ritratto? La sua amante?» «Ebbene sì», gridò Federico. «Non lo nego. Sono un miserabile, ma mi ascolti». Se aveva preso Rosanette, era stato per disperazione, come uno si suicida. Del resto l'aveva resa molto infelice per farle scontare la sua propria vergogna. È stato un vero supplizio. Lei mi capisce, vero? Madame Arnoux inclinò il suo bel viso nell'atto di tendergli la mano e insieme socchiusero gli occhi, sprofondati in un'ebbrezza che era come un infinito, dolcissimo cullarsi. Poi restarono a contemplarsi l'un l'altra, uno vicino all'altra. Erano in piedi. Si strinsero in un lungo bacio. Si sentì scricchiolare il pavimento. Vicino a loro c'era una donna. Rosanette. Madame Arnoux la riconobbe e la fissava con due occhi smisuratamente aperti, pieni di sorpresa e di indignazione. Finalmente Rosanette parlò. «Devo vedere il signor Arnoux per affari». «Come può notare, non c'è». «È vero», replicò la marescialla. «La cameriera aveva proprio ragione. Mille scuse». Poi, rivolgendosi a Federico, «Eccoti qui, eh?» Quel tu, dato davanti a lei, fece arrossire Madame Arnoux come uno schiaffo in pieno viso. «Le ripeto che non c'è». La marescialla, che si guardava intorno, disse tranquillamente, «Torniamo a casa o giù una carrozza?» Federico faceva finta di non sentire. «Coraggio, andiamo!» «Ma certo, è una buona occasione, vada dunque», disse Madame Arnoux. Uscirono. La signora si sporse sulla rampa per seguirli con lo sguardo e un riso acuto, straziante, ricadde su di loro dall'alto della scala. Federico spinse Rosanette nel fiacre, si sedette di fronte a lei e per tutta la strada non proferì parola. Quell'infamia che lo colpiva di rimbalzo era stato lui stesso a provocarla. Provava tutto insieme il peso schiacciante dell'umiliazione e il rimpianto di una felicità diventata irrevocabilmente impossibile, proprio mentre stava infine per afferrarla. E tutto per colpa di quella lì, di quella donna, di quella puttana. L'avrebbe strangolata, si sentiva soffocare. Arrivati a casa, gettò il cappello su un mobile, si strappò via la cravatta. «Di la verità, è stato proprio un bel lavoro il tuo». Rosanette gli si piantò fieramente davanti. «Perché? Cosa ci trovi di male? Ma come spiarmi in questo modo? È colpa mia se vai a divertirti con le donne per bene? Smettila, non ti permetto di insultarla». «In che cosa l'ho insultata?» Non trovando cosa rispondere, Federico assunse un tono cavilloso. «Quella volta al campo di Marte, mi stai stufando, sai, con i tuoi vecchi amori. Miserabile!» Alzava il pugno su di lei. «Non vorrai uccidermi, eh? Sono incinta!» Federico fece un passo indietro. «Stai mentendo! Guardami allora!» Prese un candeliere e, avvicinando la fiamma al suo volto, «Te ne intendi?» La pelle era stranamente gonfia, piena di piccole macchie gialle. Federico s'arrese all'evidenza. Andò ad aprire la finestra, mosse qualche passo indeciso, poi s'accasciò in una poltrona. Quell'avvenimento era una calamità. Prima di tutto rendeva inattuabile al momento qualsiasi rottura fra di loro. In secondo luogo sconvolgeva tutti i suoi progetti. Dopo essersi spogliata, Rosanette gli era venuta vicino. Vide che nei suoi occhi c'era una lacrima e gli diede gravemente un bacio sulla fronte. Federico, alzatosi, disse: «Ebbene, non vorremmo mica ammazzarlo, questo marmocchio!» Ci furono allora da parte di Rosanette interminabili discorsi. Sarebbe stato un maschio, naturalmente. L'avrebbero chiamato Federico. Bisognava cominciare a preparargli il corredo. A vederla così felice, la pietà lo travolse. Non sentiva più collera per lei e fu curioso di sapere come mai, poco fa, avesse preso quell'iniziativa. Proprio quel giorno Lavatnaz le aveva rimesso una cambiale protestata da tempo e lei era corsa da Arnoux per farsi dare del denaro. «Te l'avrei dato io», disse Federico. «Era più semplice prendere là quello che mi spetta e dare all'altra i suoi 1000 franchi. Pagati questi, almeno non le devi più niente». «Certo che no». La sera dopo, alle 9, ora indicata dal portinaio, Federico era da Lavatnaz. Thank you. La Vatnaz, con i fianchi fasciati da una sciarpa orientale, era seduta a un angolo del camino. Di Sardie le stava di fronte, dalla parte opposta, con un'aria piuttosto imbarazzata, un po' per la situazione, un po' perché quell'ambiente artistico lo intimidiva. Era finita fra la Vatnaz e del Mar? Forse no. Lei comunque sembrava gelosa del buon commesso. A Federico, che le aveva chiesto di parlarle un momento, fece segno di passare con loro in camera sua. Messi 1.000 franchi uno sull'altro, chiese l'aggiunta degli interessi. «Non ne vale la pena», disse Dussardier. «Tu sta zitto!» Vedere un uomo così coraggioso comportarsi da vile fece piacere a Federico, che ne ricavò una giustificazione per se stesso. Si riprese la cambiale e non fece mai più parola dello scandalo in casa Arnoux. Da quel giorno, però, tutti i difetti della marescialla gli saltarono all'occhio. La vita in due con Rosa Annette diventava squallida. Fu un sollievo per lui quando ricominciarono le serate dalla signora D'Ambrèse. Con lei almeno si divertiva. Conosceva gli intrighi mondani, i movimenti del corpo diplomatico, il personale delle sartorie. E se le sfuggiva a qualche luogo comune, si trattava di formule talmente cristallizzate da poter passare per frasi ironiche o condiscendenti. I vaniloqui politici e la buona tavola addormentavano la morale di Federico. Per quanto mediocri gli apparissero quei personaggi, era fiero di conoscerli e dentro di sé aspirava alla considerazione dell'ambiente borghese. Un amante come la signora D'Ambrèse gli avrebbe fornito un buon piedistallo. Si mise a fare tutto quanto occorreva. Si trovava sul suo passaggio durante la passeggiata. A teatro non mancava mai d'andare a salutarla nel suo palco. Informatosi delle ore in cui si recava in chiesa, si sistemava dietro un pilastro in posa malinconica. Fra loro era un continuo scambio di bigliettini, per notizie riguardo a oggetti curiosi, informazioni su un concerto, prestiti di libri o di riviste. In aggiunta alla visita serale, gliene faceva una ogni tanto verso la fine del pomeriggio. Ed era una gradazione di gioie per lui passare sotto il portone, nel cortile, nell'anticamera, nei due salotti. Alla fine arrivava nel suo boudoir, discreto come una tomba e tiepido come un'alcova. Lei era seduta quasi sempre su una poltroncina bassa, vicino alla fioriera che ornava il vano della finestra. Seduto sull'orlo di un grosso puff a rotelle, Federico le rivolgeva i complimenti più appropriati che gli riuscisse di scovare, e la signora lo guardava con la testa un po' inclinata, il sorriso sulle labbra. Le leggeva dei versi, mettendoci tutta l'anima per commuoverle, per farsi ammirare. Lei lo interrompeva con un commento denigratorio o con un'osservazione pratica, e i loro discorsi tornavano invariabilmente all'eterna questione dell'amore. Si chiedevano da che cosa traesse origine, se le donne provassero sentimenti più profondi di quelli degli uomini, quali fossero le eventuali differenze. Federico cercava di dir la sua evitando sia la volgarità che la scipitezza. Diventava una specie di lotta, gradevole in certi momenti, fastidiosa in altri. Vicino alla signora D'Ambrèse, Federico non sentiva quel rapimento di tutto il suo essere che lo trascinava verso Madame Arnoux, né l'allegro disordine in cui lo metteva nei primi tempi Rosa Annette. Il desiderio che provava adesso era desiderio di qualcosa di difficile, di fuori della norma, e aveva a che fare con la sua ricchezza, con la sua nobiltà, col suo essere devota, con le delicatezze di sentimento preziose come trine e gli amuleti contro la pelle e i pudori della depravazione che Federico credeva di immaginare in lei. Nel maggio 1850 Martinon e Cecilia si sposarono. Non ci fu ricevimento. La stessa sera i giovani erano partiti per l'Italia. Il giorno dopo Federico andò a far visita alla signora D'Ambrese. Gli sembrò più pallida del solito. Lo contraddisse con asprezza su due o tre argomenti senza importanza. Del resto gli uomini erano tutti egoisti. Eppure ce n'era di diversi, di veramente devoti. Non fosse stato che lui, Federico. Bah, come gli altri, immagino. Aveva gli occhi rossi e piangeva. Poi, sforzandosi di sorridere, mi scusi, ho torto. M'era venuta un'idea malinconica. Federico non ci capiva niente. Pazienza, rifletté. È meno forte di quanto non credessi. Lo guardava attraverso le ciglia abbassate. Federico, chinandosi verso il suo viso, addolcì la voce. Mi scusi, ma non è colpa mia, lei è così bella. La signora chiuse gli occhi. Federico fu sorpreso di una vittoria tanto facile. I grandi alberi del giardino si fecero immobili, trattenendo i loro fremiti sottili. Nuvole ferme striavano il cielo di lunghi nastri rossi. C'era nelle cose come una sospensione universale. Allora, confusamente, gli tornarono alla mente altre sere come quella, silenzi come quello. Dov'era stato? Si mise in ginocchio e le giurò, prendendole la mano, un amore eterno. Poi, mentre faceva per ritirarsi, lei lo richiamò con un cenno e gli disse sottovoce: «Torni a pranzo, saremo soli». Scendendo le scale, Federico si sentiva un altro uomo. Avvertiva intorno a sé la temperatura artificiale aromatica delle serre. Gli sembrava d'essere entrato definitivamente nel mondo superiore dell'adulterio aristocratico, degli intrighi ad alto livello. Per occuparvi il primo posto, una donna così era quel che ci voleva. Avida, con ogni evidenza, di potere e di azione, e legata per matrimonio con una persona mediocre alla quale era stata prodigiosamente utile, desiderava di poter guidare un uomo più forte. Davanti a Federico, sul marciapiede, un uomo con indosso un vecchio soprabito camminava a testa bassa e aveva un'aria talmente accasciata che si voltò a guardarlo. L'altro alzò la testa. Era Delorier. Esitava. Federico gli buttò le braccia al collo. «Ma come? Sei proprio tu, vecchio mio!» E lo trascinò a casa sua facendogli una quantità di domande tutte in una volta. L'ex commissario di Ledru-Rollin cominciò a raccontargli tutti i torti subiti. Dato che predicava la fratellanza ai conservatori e il rispetto della legge ai socialisti, i primi l'avevano preso a fucilate, mentre gli altri avevano preparato la corda per impiccarlo. Dopo il giugno l'avevano destituito brutalmente. S'era messo allora in un complotto, quello delle armi sequestrate a Troyes. Era stato rilasciato per insufficienza di prove. Poi il comitato d'azione l'aveva mandato a Londra, dove nel bel mezzo di un banchetto s'era preso a schiaffi con i confratelli. Era tornato a Parigi. Meglio crepare sui pontoni di Belle Île come Senecal. Federico, che si stava accomodando la cravatta per uscire, non parve commosso dalla notizia. «Toh! È in prigione quel bravo Senecal!» Delorier, facendo scorrere lungo le pareti uno sguardo invidioso, replicò: «Non tutti hanno la tua fortuna». «Ti chiedo scusa», disse Federico senza raccogliere l'allusione, «ma sono fuori a pranzo. Ti faranno da mangiare. Ordina quel che preferisci e prendi pure il mio letto». Davanti a una cordialità così assoluta, l'amarezza di Delorier si dissolse. «Il tuo letto, ma sarebbe troppo disturbo. Ma che? Ne ho degli altri». «Ah, allora va bene», sorrise l'avvocato. «Dove vai a pranzo?» «Dalla signora D'Ambrese». «Ah, sarebbe forse per caso... Sei troppo curioso», disse Federico con un risolino che confermava l'ipotesi. Data un'occhiata alla pendola, era tornato a sedersi. «Proprio così, non bisogna mai disperare, vecchio difensore del popolo. Misericordia, ci pensi pure qualcun altro». La grande massa dei cittadini, secondo Federico, che aveva messo a profitto le sue serate dai D'Ambrese, aspirava solo a un po' di tranquillità. Tutte le prospettive erano per i conservatori. Il partito, tuttavia, mancava di uomini nuovi. «Se tu ti presentassi, sono sicuro che...» Non terminò la frase. Delorier aveva capito. Si passò le mani sulla fronte, poi di colpo... «Ma tu, scusa, chi te lo impedisce? Perché non potresti diventare deputato?» Per via di una doppia elezione nella circoscrizione di Nogent, c'era una candidatura vacante. D'Ambreuse, rieletto alla Camera, apparteneva a un'altra circoscrizione. Vuoi che me ne occupi io? Conosceva molta gente, proprietari di locali, medici, istitutori, avvocati e praticanti. E poi ai contadini si dà da bere quel che si vuole. L'ambizione di Federico si riaccendeva. Delorier aggiunse: «Certo, bisognerebbe che tu mi procurassi un posto a Parigi. Non sarà difficile, grazie a D'Ambreuse». «Già, e a proposito di miniere, cosa ne è della sua grande società del carbon fossile? È proprio un lavoro del genere che mi ci vorrebbe. Potrei rendermi utile senza rinunciare alla mia indipendenza». Federico promise di portarlo dal banchiere entro 3 giorni. Il suo pranzo tête-à-tête con la signora D'Ambreuse fu una cosa squisita. Di fronte a lui, dall'altro capo della tavola, lei gli sorrideva al di sopra di una corbeille di fiori, alla luce del lampadario sospeso. Dalla finestra aperta si vedevano le stelle. Parlarono molto poco, incerti persino di se stessi, ma ogni volta che i domestici erano di schiena, si mandavano un bacio a fior di labbra. Lui le parlò del progetto di candidatura, lei l'approvava e si impegnò anche a ottenere l'appoggio di D'Ambreuse. In serata si presentarono alcuni amici per rallegrarsi con lei e insieme per compiacerla. Doveva essere talmente triste non aver più la compagnia della nipote. Alla fine erano rimasti solo Grammonville e Federico. Il diplomatico non accennava ad andarsene. A mezzanotte finalmente si alzò. La signora D'Ambreuse fece segno a Federico di andare via con lui e lo ringraziò della sua obbedienza con una stretta della mano che fu più soave di tutto il resto. La marescialla, a vederlo, diede in un grido di gioia. Erano 5 ore che l'aspettava. Federico prese la scusa di una visita indispensabile nell'interesse di Delorier. Il suo volto doveva avere un'aria di trionfo, una specie d'aureola. Rosanette ne fu abbagliata. Federico se la prese sulle ginocchia e intanto «Sono un bel mascalzone», pensava, tutto compiaciuto.